pretendo rispetto, discorgo fra le rive di quel fiume. Scaldare l'acqua che bolle a 100 gradi e poi lanciarti nel nulla. No.